Tuat sunea mo bunda supportar. Lateramaint d'un helicopter, la suna soncia protestanta, il svola basta d'avions da militar, la viera d'una barcia a motor, il rebond d'un gioco da tennis, il fracas da trens da marcianzia, il chant dall'armada dal salut, stizis da frenada sulla faccia d'un fan. Pur da not. Curcia la boscia, sblaccia. Tu assa surillai. E su in fanestra aperta. Il vent contrari. Tira greife il fla. Piglia la lune in prasciunia. Finci una tabletta da dormir, tilla tira, da vola tenda.